Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Che cos'è il genio? È fantasia, intuizione, decisione e velocità d'esecuzione. You don't know what's going on. You've been away for far too long. You can't come back and think you are still there. È l'assessore di una provincia molto italiana duro, fatta di evasori e elusori fiscali. Evasori e elusori fiscali che è in Lussemburgo. Ma diciamo le cose! Bene. Ma fate finta di indignarvi. Proprio lei si indigna. Ma mi lasci parlare. Ma io la faccio parlare. Ma è di un non paese, però. Anche perché non ha niente da dire se non di interrompermi. Mi lasci dire che il pubblico ne trae più beneficio. Il pubblico ne trae più beneficio. Lasci finire il mio ragionamento. Lasci finire il mio ragionamento. O fa come Vespa. O fa come Vespa anche lei. No. Cameron ha detto: ho problemi interni nel partito, ho problemi con l'Unione Europea, voglio fare il figo, voglio fare il figo con l'Unione Europea, voglio trattare, voglio avere di più e così via, tanto lo vinco e spazzo via tutti. Gli è andata male. Brunetta sarà il Boris Johnson di Renzi Cameron, cioè che lei sono più essere... sono più intelligente e più simpatico di Boris Johnson. Signori, è lo sport più pericoloso del mondo invitare Renato Brunetta. Se ti affidi a questo sport è come fare paracadutismo estremo. Può finire come a David Parenzo e a Tommaso Labate, può finire come a Bruno Vespa di recente. Il vero tema cos'è? Che se io prendo esempio i dati dell'associazione della Confindustria delle... Anche lei sia al suo posto. Lei non ha il diritto. Quanto guadagna? Quanto guadagna? Ma scusi, quanto guadagna? Interrompo una persona. Ricco di lei. È questo un peccato mortale? È un peccato mortale. E allora qual è il problema? Solo diciamolo. Guardi, quando la propaganda politica non arriva a questo punto. Politica. Scusi, eh? O quando la sottomissione politica. Qual è la sottomissione? Qual è la sottomissione? Perché è questo tono suo con lui. Io perché? Lei è un ospite? Lei deve rispettare. Un ospite. Onorevole Bruno. In italiano, onorevole Vespa. No, già stato trovato, non è andato. Sì, sì, lui ha adottato questa tattica. Uno dice onorevole Brunetta, onorevole Vespa. No, ma onorevole Brunetta, onorevole Vespa. Vabbè, signori, dai che è venerdì. La 165esima settimana decisiva per l'abolizione delle province volge al termine. È venerdì! Urliamolo tutti insieme, Milan! È venerdì! La 166esima ovviamente alle porte, siamo qui. 24 mattino ha riaperto i battenti anche per oggi. Tra l'altro dobbiamo annunciare che da lunedì prossimo andremo avanti, ci allargheremo un po' fino alle 9.30 per la gioia di Peter Pescapè, che vedono in regia, sorride, è in ferie. Sei in ferie? Chiamate subito il direttore del personale, per cortesia, verifichiamo se le ferie sono confermate. Ora licenziato! te lo confermeremo alle 6:58 in chiusura di Parlamento a capire se le ferie sono confermate. Lorenzo Nespoli invece sarà qui. Lo so, mi dicono i mitici Rolling Stone rovinati da questi qua che abbiamo messo sopra. Vabbè ragazzi, se vuoi ascoltare i Rolling Stone comprati il CD Totali, senza la voce di Brunetta, Bruno Vespa, Parenzo, l'Abate, la mia. Saluto a Vicenza Luciana, saluto Lino da Firenze, saluto Manuel da Riva d'Olmo, nei Colli Euganei di Padova dunque. Paola da Desio che mi dice dai che è venerdì. Va bene, io devo subito salutare il vice direttore di Libero, Massimo De Manzoni. Buongiorno Massimo, come stai? Buongiorno. Sapete bene, che grazie. Oggi ci sarà il pronostico, lo chiediamo a tutti, l'Italia-Germania, quindi insomma in chiusura preparatevi a vedere i vostri vaticini. Insieme a te, caro Massimo, c'è Carla Rocchi, che è presidente nazionale dell'Ente Nazionale Protezione Animali. Buongiorno. Ben ritrovato. Come stanno i nostri amici animali? Ha qualche notizia da darci sugli animali? Loro stanno bene. Stanno, è un anno decisamente migliore per loro. Meno abbandoni, più gentilezza, più comprensione, più allegria. Beh, siamo tutti più allegri per questo. Va bene. Massimo De Manzoni, sei contento di questa notizia? Sempre notizie negative, invece vedi i nostri cuccioli. Io sono felice, io sono un amante di animali, un cane, un gatto. Un cane, un gatto, e vanno d'accordo? Ma in maniera meravigliosa. Ah, fantastico, come Renzi e Berlusconi più o meno. Più o meno. Come Renzi e Berlusconi. Renzi con Falonieri. Renzi con Falonieri, attenzione. Perché qui dobbiamo subito buttarci. È tornata la politica italiana. Apriamo il Parlamento perché sono tornati, come dire, tutti gli accordi, contraccordi, battutine, frasi buttate là, interviste. Intanto la notizia è questa: secondo sia il Corriere che Repubblica, sondaggi Euromedia Research, Demos, ognuno al suo, il Movimento 5 Stelle in questo momento nel gradimento degli italiani ha superato il PD 32-30 come percentuale. De Manzoni, se si andasse a votare adesso, infatti è per quello che il Movimento 5 Stelle non vogliono più cambiare l'Italicum. Anche lì è fantastico. Allora, il Movimento 5 Stelle non vuole cambiare l'Italicum facendo finta di volerlo cambiare, perché è sempre detto così. E Renzi vuole cambiare l'Italicum facendo finta di non volerlo cambiare. La muina all'italiana, insomma. Meraviglioso. È meraviglioso, è tutto meraviglioso. Questo è il primo partito, e poi c'è il grande, appunto, la grande bomba mediatica lanciata ieri da Confalonieri, no? Che parlando alla stampa ha detto: Berlusconi aiuti Renzi. Sempre stato sotto traccia questa cosa qui. Del resto basta guardare certi programmi Mediaset, si rende conto che Confalonieri non ha mai smesso di fare un suo personalissimo Nazareno. Quindi è normale che spinga in questa direzione, anche e soprattutto in chiave anti 5 Stelle. Il problema si è posto, c'è. Confalonieri poi ha fatto un bel esempio dal suo punto di vista, dice: ci sono i 5 Stelle, potremmo avere solo il 10% di una televisione invece che tre reti. Cioè, guarda, ai danè. Valido. Cara Carla Rocchi, mentre pensiamo agli animali, tornano insomma le vecchie logiche politiche. Sapete che ho letto un nome, Carla Rocchi, non so se questo nome è un po', non so se la inquieterà come Ignazio Marino. Beh, ormai sa, è della serie che è archeologica, giurassica, invece c'è una attenzione, c'è pronto il nome, l'ho letto sul giorno. È un'avanguardia? Pare che Berlusconi abbia detto: se dovesse mai cadere Renzi vorrei un governo amato, Giuliano Amato. Beh, poi vedete perché i 5 Stelle hanno questo momento, diciamo, questo momento in, secondo me non eterno, ma è un grande, per loro è un grande momento, perché tutti gli fanno degli assist. Cioè, perché Giovanni Amato e Giuliano Amato. Uno dice governo Amato, l'altro dice che cosa, Berlusconi, aiuti Renzi. Queste sono tutte cose. I 5 Stelle in questo momento, se tacciono, Basta che stiano zitti. E per loro è un momento irripetibile, perché tutti lavorano per loro. Effettivamente, è un po' così. È come la squadra di calcio in cui era il Barcellona col tiki taka, te lo ricordi, De Manzoni, no? Tutto un centrocampo fantastico. Tu stavi lì davanti e bastava solo aspettare di buttarla dentro, no? Un po' è così, dai, cioè, voglio dire. Così, però per fortuna in Italia zitto non sta nessuno, per quello che 5 Stelle parla. Non c'è il rischio che anche loro non stiano. Per esempio, a Roma, cosa sta succedendo a Roma? Non succede niente. Infatti, è tutto è un incantesimo. È tutto fermo, rallentato, dove ci sono tutte belle immagini e dove tutto va. È tutto sospeso in questa città che ha visto di tutto. Non c'è ancora una giunta. E poi c'è questa frase meravigliosa della sindaca o sindaco, quello che sarà. Facciamo sindaco. Comunque, che dice chiamatemi, ma voi la citazione letteraria, chiamatemi Virginia, è come chiamatemi Ismaele, è l'inizio di Moby Dick, chiamatemi Ismaele. Perché chiamatemi Virginia, è bello, avvicina le persone. Però attenzione che oggi il tempo rivela che invece sui documenti ufficiali ci fanno le correzioni a mano la sindaca. Prima pagina del tempo. Ma come la sindaca? Ma con tutto quello che ha detto, chi se ne frega? Non ha il problema dei romani. Tutto quello che ha detto, il tempo pubblica un documento corretto a mano, invece che il sindaco, la sindaca. Impiegati inferociti dei municipi, correzioni a mano per la firma della RAI. Sono cose importanti, decisive, cioè mica il sacco di monnezza. A proposito, come va? Dovremmo fare Carla Rocchi a un punto di osservazione in cui ci sono sacchi di monnezza. Sai come si faceva a Napoli, che c'erano i cittadini che facevano le foto? Come va lì a monnezza? Ma guardi, io mi trovo a vivere in una zona abbastanza dalle mie finestre il Campidoglio lo vedo, quindi è pura fortuna, ma vabbè, insomma, fortuna. Se la sarà conquistata come scaiola. Sì, però solo che questa è la casa di famiglia, non vogliamo fare le pulci, ma se l'è pagata, ma è lì da generazioni, quindi è roba di vabbè. Ma detto questo, l'immondizia a Roma ce n'è quanta se ne vuole, basta, magari non c'è proprio nel perimetro centrale, ma ormai però devo dire i romani sono fantastici perché assorbono tutto e non perdono il loro fantastico stile volendo. E incazzatissimi, ma con molto stile british qualche volta, e certo che io mi auguro che questa amministrazione faccia qualcosa, abbia però attenzione, perché De Manzoni, la notizia io l'ho scovata anche su Libero a un certo punto, questa io però non ci voglio credere, ma Secondo quanto scrivete voi oggi, ci sarebbe anche questo piano su Roma. L'ho letta così, vediamo se l'ho capita bene. Il Movimento 5 Stelle potrebbe chiedere tecnicamente di far fallire il comune, il fallimento, chiedendo contemporaneamente che Virginia Raggi intervenga come commissario straordinario. Sì, non tanto di far fallire, ma di dichiararla fallita. Prendere atto che Roma è fallita e quindi dare alla Raggi poteri straordinari, in modo che si saltano tante piccole procedure di nomine. Ho capito, ma voglio dire, no, per carità, è bello, ma mi sembra un modo un po'... Magari tecnicamente anche così, cioè si possono portare i libri in tribunale perché tecnicamente la città è fallita dal punto di vista dei conti. Però è più un escamotage per aggirare una serie di pratiche. Perché poi il commissario può fare le cose in maniera un po' più... È alla tronca. La nostalgia di Tronca. Tronca è stato un momento irripetibile per questa città. Ma tutto quello che abbiamo detto, ma allora lo lasciavamo, cioè si diceva per scherzo, qua si scherzava quando si diceva lasciate Tronca, e invece qua pare che in pratica cambia il nome, ma il principio sia quello, vogliono gestire con una in maniera straordinaria, soltanto c'è un dettaglio che non si considera, che il commissario straordinario non viene nominato, non viene scelto dai partiti, ma viene nominato dal governo. È chiaro che l'accordo sarebbe, come dire, la facciamo, sì, la dichiariamo fallita, però voi ci mettete la Raggi. Non sarebbe la prima volta che un commissario straordinario, come Bassolino con i rifiuti di Napoli, per esempio, fu nominato lui, anche se era sindaco o presidente di regione, adesso non ricordo esattamente. Sì. Comunque oggi la Raggi l'ha fatto benedire dal Papa. Esatto, incontra il Papa. È tutto a posto. Quando c'è la benedizione papale per Virginia Raggi, quindi tutto sarà a posto. Sentite, invece io vi voglio coinvolgere su questa cosa oggi sui giornali fortunatamente è stata... esaminata con maggiore attenzione quello che è successo a Sesto Fiorentino, meglio tra Sesto Fiorentino e Firenze. Questi sono gli scontri una notte di tensioni terribili tra le forze dell'ordine e la comunità cinese, chiamiamola così, perché tutto è nato da controlli di ASL che dovevano fare nella comunità cinese, e questa volta però De Manzoni, come dire, è finita così. E la comunità cinese, che spesso lavora sotto traccia, in silenzio, sono molto operosi, molto laboriosi, secondo Repubblica valgono 6 miliardi di PIL, 6 miliardi di PIL, questi sono calcoli ovviamente a spanne, e stavolta la comunità cinese si è incazzata. Questo è il concetto. Stiamo sottovalutando questo problema, secondo te? Beh, un po' sì, si sono comportati come alle volte succede in certi quartieri di Napoli o di Palermo, come Stato nello Stato, come comunità chiusa che non si può toccare, non si può disturbare e che rifiuta i controlli che peraltro sono sacrosanti, perché la comunità cinese sarà anche molto laboriosa, ma spesso lavora in concorrenza sleale con gli italiani, con i commercianti italiani che sono sottoposti a quei controlli, sì, che quindi devono rispettare determinate norme di igiene, sì, di ovviamente di lavoro non in nero, di quando vengono, sì, scoperti gli italiani, giustamente vengono sanzionati. Sì, oppure e non come scrive, perché non debba succedere questa cosa. No, ma è chiaro. O come scrive oggi. Esatto. O come scrive oggi Luca Telese proprio sul Libero, sono più italiani di noi in questo, cioè hanno capito che la tecnica del magari. Se lo vogliamo vedere dall'altra parte, ma non va bene lo stesso, ecco. Non va bene lo stesso. Da parte la si guardi. Quello che è successo non va bene. Quando siccome sono stranieri, dobbiamo come spesso scatta nella nostra testa, dobbiamo trattarli in modo un po' diverso, perché poverini hanno le tradizioni poverini devono integrarsi. No, per carità, poi sono delle comunità che diventano sì Stato nello Stato. Quando Carla Rocchi era in Parlamento, quanti cinesi c'erano in Italia? Ma io non l'ho mai saputo nessuno, perché i cinesi arrivano in Italia, tradizionalmente non muoiono. Questa è una leggenda, dai, su. Certo, ma è evidente che è una leggenda. Ma insomma, voglio dire, secondo me nessuno ce l'ha una stima esatta dei cinesi in Italia, non ce l'hanno. Ma infatti anche questa stima di 6 miliardi di PIL, voglio sapere come l'hanno fatta. Quella secondo me la fanno con quello che esce di lavorato, perché poi alla fine i cinesi mica lavorano per farsi il vestitino per loro, lavorano per tutto un indotto che molto emerso e molto sommerso, quindi la stima si fa a spanna. E comunque certo è che ci sono zone d'Italia che ormai si sostengono accolgono, ospitano, non saprei come dire, un'economia che è fortissimamente basata su questa presenza. E certo è che adesso, mentre prima si... Era più silenziosa, adesso in questo si è italianizzata, più rumorosa, giustamente. E alla fine il cinese si incazzò, vi ricordate? I cinesi nel loro piccolo si incazzano. Esatto. Allora dobbiamo andare al traffico, poi rientriamo. C'è un De Luca spettacolare, come sempre, Vincenzo De Luca, e poi altri temi. State con noi. Il primo premio va al traffico con il pelo lungo e le corna belle. Ciao Alino, volevo darti un pronostico per la partita di sabato. Allora, la partita di sabato finirà come decideranno di farla finire la sera prima a cena. Ok? Ciao ciao! Come da una nota pubblicità, Matteo è in un'età difficile. Risponde. Tu credi che tanto Matteo rispondi, Matteo rispondi, Matteo rispondi. Ma tu, le telefonate che interessano ai cittadini, che ci fanno apposta una telefonata, non è il numero verde, mica le mandi in onda. Assolutamente no, ti guardi bene. E poi critichi gli altri, tu non sei da meno. Alessandro Milan, diretta su Facebook. A me non frega niente. Secondo te butto via i miei giga per vedere tua brutta faccia. Bye bye. Vabbè, sono scelte che uno fa, la diretta su Facebook, non so, Carla Rocchi sta su Facebook, ogni tanto facciamo delle dirette su Facebook. Me le guardo bene, io ci sto, ma ci sto in incognito. Perché questa è una nuova modalità effettivamente, c'è chi ci sta sui social ma in incognito, e perché? Per spiare e non essere spiata? No, nemmeno, io non figuriamoci, non mi piace... Di Facebook non mi piace, mi piacciono tante cose di Facebook, sì. Tutte le cose positive, ma questa cosa che la gente si incarognisce, qualunque cosa fai, se torna Giovanna d'Arco la rimettono a rogo, se torna Maria Goretti la mettono in croce, è una roba che non... Più bontà, ispiriamoci ai cuccioli, bontà. Noi abbiamo tanto, ecco, la pagina Facebook che mi piace è la nostra, che, Empa, che noi abbiamo 800.000 mi piace, che significa 800. Milioni di visualizzazioni. È una roba che questa mi piace molto, perché ma non mi piacciono quelle della serie sei cattivo, c'hai le corna così, allora quella ha detto, quella è proprio una perdita di tempo. Vabbè, ma certo, la gente un po' si sfoga sui social. Allora, Vincenzo De Luca, eccolo qua, Vincenzo De Luca a suo modo, come sempre, del presidente della Regione Campania, torna, di che parla, sentiamo. Interventi. Chi deciderà, presidente, sulla trasparenza degli appalti? Oltre al Padre Eterno che vigila su tutti noi, vigileranno le istituzioni democratiche. Noi ormai ci stiamo abituando ad un sistema di autoflagellazione e di autocastrazione. Ci stiamo convincendo noi stessi che siamo tutti ladri geneticamente. Vorrei smentire questa cosa, non è così. Oh, questo è interessante in realtà il dibattito. Il modo è sempre il solito di De Luca. Ci stiamo convincendo che siamo ladri geneticamente. Massimo De Manzoni, sai che questo è un dibattito che c'è? Cioè dire gli italiani sono ladri, insitamente ladri, quasi antropologicamente ladri. No, io sto con De Luca, non è così, non è vero. Io conosco una montagna di bravissime persone che fanno più notizia, come è normale, quelli... più notizie i farabutti. È vero che abbiamo la tendenza a essere furbetti, ma non crediate che nel giro per il mondo l'occasione fa l'uomo ladro. È un detto che funziona un po' dappertutto, però non è vero che tutti gli uomini poi di fronte all'occasione diventano ladri. Non è assolutamente vero, ha ragione De Luca su questo. Noi siamo particolarmente bravi a denigrarci, in particolare all'estero, certo. Poi magari riscopriamo questo patriottismo, eccetera. Vabbè, Carla Rocchi li ha visti in Parlamento, insomma, li ha visti. Ma io mi ricordo che in Parlamento si diceva sempre che c'era questa cosa: gli uomini parlamentari, le donne sono meglio, no? Questa cosa qua, le donne sono meglio. Cioè rubano meglio? No. Le donne non rubano. Scherzo, è battutaccia, cattivissima la mia. No, ho pensato sempre che certo che no, ma bisogna capire anche le proporzioni. Abbiamo avuto delle situazioni in cui delle governanti, cioè l'occasione non è del tutto sbagliata. Fa la donna ladro. Insomma, ci abbiamo avuto qualche esempiuccio quest'anno di amministratori, amministratrici che si infilavano nella sanità, quindi io trovo che le generalizzazioni non piacciono, però anche sono molto rassicurate. No, le generalizzazioni no, ma infatti dire gli italiani sono ladri vorrebbe dire che abbiamo un DNA marcio corrotto dall'interno, non è così, però forse è un sistema, se il sistema negli anni, nei decenni porta a non punire esattamente o a squilibrare nella punizione chi ruba e chi non ruba, sì, forse il problema è quello. Ma forse anche il problema è che abbiamo un sistema anche molto farraginoso, pieno di burocrazia, gonfio di passaggi, e nei passaggi, in ogni passaggio si annida potenziale della burocrazia. Quello allora, è vero. Quello se è tu vero. Per ottenere un documento devi fare un passaggio, o trovi quello corrotto o trovi quello onesto. Se ne devi fare 50, in quei 50 qualcuno di corrotto è più facile che lo trovi, è statistico questo. No? Quindi sì, noi forse dovremmo semplificare un po' le regole. Ma c'è una legge già dagli anni 60, una legge dello Stato non abolita che dice che ci si può autocertificare, che la certificazione della burocrazia non è necessaria. Questa è stata la legge più disattesa dello Stato italiano, perché se l'autocertificazione passa, anche nelle cose più semplici, blocchi interi di burocrati se ne vanno a casa. E qualunque colore politico è tenuto in piedi e dalla burocrazia. I funzionari, politici passano, i ministri passano il corpaccione rimane. Ma io l'ho sentito dire ai ministeri, e quando arrivava un ministro particolarmente imbecille, assicuriamoci, abbiamo avuti. E succedeva spesso, appunto. Paf diceva, non vi preoccupate, loro passano, noi siamo qua. Certo, ma è chiaro. Allora siamo al momento del pronostico, il pronostico Italia-Germania. Sulle banche abbiamo vinto noi, ma quello che conta è sabato sera. Forza, Massimo De Manzoni, devi lanciarti in un pronostico. Allora, premetto che io tifo Italia, non faccio lo snob. Beh, insomma, bisognerebbe. Cosa dovresti fare? Come il tedesco e gli Uffizi che tifa? No, abbiamo appena avuto endorsement Travaglio. Ha detto che lui tifa Germania. Ma sì, cretinate così. Io non sono così, io tifo Italia da sempre, sarei contentissimo che l'Italia vincesse. Se devo fare un pronostico, che è una cosa diversa, secondo me... Domani sera vince la Germania. Ah, vince. Nein. Carla Rocchi. 2-1 per noi. 2-1 per noi. Noi saremmo l'Italia. Noi siamo. Che ne so, bisogna specificarlo effettivamente, come dice Massimo. come dice De Manzoni, insomma, Travaglio tifa Germania, quindi per lui noi saremmo i tedeschi. Vabbè, quindi 2-1 per l'Italia, secondo Carla Rocchi, mentre Massimo De Manzoni dice passa la Germania ai noi. Vabbè, che dobbiamo dire? Intanto vi saluto, vi abbraccio, alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da Assicom. Vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Signori, eccoci qui, è venerdì, sono le 7:17 minuti. Siamo pronti alla lettura dei giornali in questo spazio, come sapete, e vi ricordo che poi avremo ospiti Luca Ricolfi, sociologo, scrive anche sul Sole 24 Ore. Parleremo di sicurezza legata agli immigrati, perché c'è questa ricerca molto interessante della Fondazione IUM, secondo la quale i reati sono legati, hanno uno stretto legame con le migrazioni. Ma ci spiegherà tutto Luca Ricolfi. Parleremo anche di quello che è successo tra Sesto Fiorentino e Firenze, la rivolta dei cinesi, come è stata ribattezzata dai giornali, tema che è ben presente sui quotidiani che andiamo a sfogliare. Le mie lunedì, le venerdì. Eccoci qui, ed è un venerdì che dà inizio a un nuovo mese, luglio, venerdì 1 luglio. I titoli: Sole 24 Ore, banche, via libera europeo allo scudo da 150 miliardi è il titolo di prima pagina. Così per il Corriere della Sera: scudo pubblico per le banche, via libera dall'Unione Europea. Per il Messaggero: banche italiane sia allo scudo, mentre Il Fatto Quotidiano: banche, lo scudo col buco. Stampa: banche, sì dell'Unione Europea allo scudo da 150 miliardi. Questi titoli sulle banche. Poi c'è Repubblica: 5 Stelle, sorpasso sul PD. Questa invece è la politica, sono i sondaggi. Questi alcuni dei titoli, ne vedremo altri, ma voglio appunto buttarmi subito nella lettura di quegli articoli che raccontano quello che è successo tra Firenze e Sesto Fiorentino nella notte dell'altro ieri, quando c'è stata una rabbia esplosa da parte della comunità cinese molto folta in quella zona d'Italia. Tutto partito da controlli che l'ASL voleva fare su alcune aziende, e poi la situazione è degenerata. Laura Montanari e Simona Poli dedicano due pagine su Repubblica nella Chinatown in rivolta. Il vostro Stato sa solo multarci. Una rabbia così non si era mai vista in 30 anni di Chinatown toscana. È volato di tutto contro carabinieri e polizia, sassi, bottiglie, lattine di fagioli, pezzetti di marciapiede, cassetti, legni. Mille cinesi nella notte in piazza Marconi davanti ai capannoni dei laboratori di pelletteria su quella fragile linea di confine tra Firenze e Sesto Fiorentino, in una periferia di fabbrica asfalto dove i cartelli indicano la via per le autostrade, quella per l'aeroporto, quella per l'IKEA. Vogliamo giustizia, gridavano su una aiuola di sterpaglie in mezzo a un incrocio, su un volantino frasi pesantissime in doppia lingua: Stato italiano, mafia con la licenza, siete dei ladri, sapete soltanto chiedere soldi ai cittadini cinesi. Così c'era scritto. C'è la protesta e l'intervista a un esponente della comunità cinese, Francesco, si presenta così, 27 anni, che dice: la mia gente si sente vessata. E è partita una denuncia? No, tanto non li prendono mai. Una parte dei soldi, dei controlli alle aziende, non sono andati per la prevenzione o per aiutare i cinesi con politiche di integrazione, orientare i piccoli imprenditori a conoscere meglio i regolamenti sul lavoro e sicurezza. Eppure hanno incassato multe per 5 milioni di euro allo Stato italiano. Questa è la denuncia dei cinesi. Tutti i giornali però, e i giornali mettono in luce che come sempre una medaglia a due facce, la si può vedere da una parte, dalla parte di chi ha protestato, e dall'altra parte, dalla parte dello Stato. Per esempio, Il Giorno si concentra sulla figura di Jacopo Zhang, leader dell'associazione Cervo Bianco, che, racconta Il Giorno, era anche in piazza due giorni fa a raccogliere persone per protestare. Ebbene, il leader Jacopo Zhang in realtà è finito in carcere con le accuse di favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione, spaccio di droga, ed è ancora in carcere. Jacopo Zhang, leader del movimento, finito in carcere per racket. Inneggia alla non violenza, ma ha reclutato centinaia di cinesi per gli scontri. Due giorni fa questa associazione. Il capo degli ispettori viene intervistato dal Giorno da Paola Fichera. Lui si chiama Renzo Berti, direttore della task force che controlla proprio il rispetto di regole di igiene e sicurezza nei laboratori, dove lavorano migliaia di cinesi, e dice: la scintilla è scoccata in un capannone alveare con più di 50 imprese, aveva riscontrato diverse irregolarità, è vero, ma al contrario di tante volte non c'erano chiusure né sequestri di attività, si parlava di piccole sanzioni. Ma abbiamo avuto da subito la sensazione dell'irritazione generalizzata. Certo, le nostre visite non fanno mai piacere, ma la sensazione è che ci fosse già molta benzina, che ci trovassimo insomma in un humus fertile alla rivolta. Come spesso accade, sembra leggere qui la conferma di questo ispettore, magari le cose accadono, ma perché si sono sommate goccia dopo goccia tensioni nel tempo. Tra l'altro, Repubblica, nell'affrontare questo tema con Vladimiro Polchi, racconta pagina 19 e mette lì una cifra: 6 miliardi. Questa cifra, che viene stimata su Repubblica, è quanto varrebbe di PIL l'economia cinese, il dragone d'Italia. Un esercito di commercianti, ristoratori, baristi, albergatori, operai tessili. 6 miliardi di PIL è la comunità più numerosa. I cittadini regolari residenti al 1 gennaio 2016 in Italia sono 271.000, il 5,4% del totale degli stranieri, anzi è la quarta, comunità più numerosa dopo quella dei rumeni, albanesi e marocchini. Quasi la metà sono donne. A livello territoriale sono soprattutto in Lombardia 62.000. 6 miliardi ovviamente è un po' la stima, perché è innegabile che ci sia anche molto di nero nel lavoro. Comunque tutti i giornali ne hanno parlato, noi avremo il sindaco di Sesto Fiorentino più tardi dalle 8.40. A proposito di evasione invece, salto sulla Stampa, perché la storia che racconta Claudio Laugeri è davvero incredibile, o sembra incredibile, perché la cifra che il fisco ha contestato a questo imprenditore Giovanni Perona, classe 1925, è impressionante. 121 milioni. 121 milioni, ha evaso il fisco per 60 anni. Questa è l'accusa, ovviamente. Gli avvocati dicono ha sempre denunciato i redditi, certo, ha anche pagato i condoni, fatto rientrare fondi con lo scudo fiscale, ma denaro guadagnato in modo lecito all'estero. Questa è la posizione dell'avvocato Mario Garavoglia, che difende gli interessi dell'imprenditore insieme a Cesare Zaccone, ma racconta alla stampa, classe 25, torinese, dal dopoguerra ha fatto affari con il gotha del capitalismo internazionale. La storia è davvero questa, l'accusa di aver evaso il fisco per 60 anni e il tribunale ha confiscato 121 milioni di euro. Invece devo riaccendere i riflettori, come fanno i giornali, su una storia che era stata raccontata qualche tempo fa, riguardava i coniugi De Ambrosis, forse non vi dirà nulla, ma all'epoca, qualche anno fa, finirono su tutti i giornali, 75 anni lui, 63 anni lei, mamma e papà. Erano stati giudicati incapaci di accudire la bimba nata nel 2010 perché l'avevano abbandonata per pochi minuti in auto. Da 3 anni non la vedono più. Erano stati soprannominati i genitori nonni. Ripeto, 75 anni lui, 63 anni lei, la bambina di quanti anni? Di 10 anni. Ebbene, hanno ora ottenuto il benestare, facendo ricorso, dalla Corte d'Appello si deve ripartire, i genitori nonni di Casale potranno riavere la figlia. Ha stabilito il Tribunale, intanto, come racconta Repubblica con Carlotta Rocci e Ottavia Giustetti, c'è la reazione loro, l'emozione è davvero troppo forte, davvero possiamo riabbracciarla? Vogliamo soltanto capire. Gabriella Carsano è nella sua casa di Mirabello Monferrato quando l'avvocato gli porta la notizia che per la seconda volta in Cassazione la sua battaglia giudiziaria è stata vinta. I magistrati hanno accolto il ricorso straordinario annullando la vecchia sentenza. Quindi Gabriella e Luigi, coppia che l'opinione pubblica ha ribattezzato i genitori nonna, potranno riabbracciare la figlia di 6 anni, non 10 anni, 6 anni, che il tribunale aveva dato in affidamento nel 2011 quando aveva poche settimane. D'altronde il Tribunale ha stabilito se sussiste la capacità genitoriale, non ci sono limiti d'età per essere padre e madre. Questo è il principio affermato dalla prima sezione civile della Corte. Così è stata, lo so che è brutto utilizzare questa parola, ma di fatto restituita alla coppia di anziani la figlia, ribaltando le sentenze che l'avevano dichiarata invece adottabile. E ovviamente l'emozione, il dibattito che c'è, che c'era prima, che c'è ora, e a maggior ragione ora, dopo che per 3 anni questa bambina è stata sottratta a loro. Viola restituita ai genitori nonni, questo è anche il titolo del giorno, ma ci sono molti giornali che dedicano una, se non 2 pagine a questo caso, con il papà che dice, ci hanno trattato all'epoca come scimmie. Questo anche molti, molti giornali. Dicevano che non ho l'immaginario paterno, ma come si fa? Nessuno ci ha dato il tempo di provarci. Sfido chiunque a esprimere sentimenti veri durante gli incontri protetti, osservati come scimmie in gabbia. Chissà se la polemica è chiusa. Siamo invece all'articolo che mi fa sare della giornata, l'articolo da Mani sul Volante se siete alla guida, e come sempre oggetti contundenti da appoggiare, soprattutto i rasoi se vi state facendo la barba, cari ascoltatori. La storia è di Alessandro Gonzato su Libero, il finto profugo fa ricorso, ce lo teniamo fino al 2020. Succede a un nigeriano che è sbarcato a Lampedusa, si è visto negare l'asilo, ha fatto la domanda come è legittimo, come è giusto per ottenere l'asilo per status di rifugiato, ma è stata negata la domanda, lui si è opposto, la legge consente anche tutto questo e gli consente di restare in Italia fino al verdetto, tutto giusto, tutto corretto, in una giustizia che funzioni, questo verdetto quanto ci vorrà? 2 mesi, 3 mesi, nel frattempo sia in Italia, 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi. Il giudice ha fissato l'udienza il 30 gennaio 2020. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, il Giaccherini dell'informazione. Ma il Giaccherini dell'informazione, speriamo sia in forma ovviamente per la partita di domani sera Italia-Germania. Oh, mi raccomando, mandate le vostre sigle in audio al 349-238-6666, è un numero WhatsApp e quindi potete mandarle in audio buono come questo nostro ascoltatore. Allora, le banche. È stata un'altra giornata importante, dopo la Brexit, dopo la lite verbale tra Renzi e Angela Merkel, beh, c'è una buona vittoria per l'Italia, nel senso che c'è il sì dell'Unione Europea allo scudo, si parla di una cifra 150 miliardi per le banche. È una garanzia statale su emissioni bancarie in caso di scarsa liquidità, come spiega Beda Romano a pagina 3 del Sole 24 Ore. Non è che è una cosa che è scattata, ma è una sorta di paracadute, una sorta di ombrello protettivo che in caso dovesse servire può essere utilizzato. Il governo italiano, scrive Beda Romano, ha ottenuto dalla Commissione europea di poter assicurare garanzie pubbliche a banche quando queste raccolgono liquidità sul mercato. È una scelta precauzionale da utilizzare nel caso di improvvisa carenza di liquidità, ma conferma quanto sia delicata la situazione del settore bancario. In un comunicato, l'esecutivo comunitario ha confermato l'autorizzazione concessa all'Italia, giunta nel fine settimana, 3 giorni dopo la pubblicazione dei dati sul referendum britannico della Brexit. La scelta inglese ha provocato ondate di nervosismo sui mercati finanziari, penalizzando in particolare le banche italiane oberate da sofferenze creditizie. Lo schema autorizzato da Bruxelles è valido per 6 mesi fino alla fine dell'anno. Questo dal punto di vista tecnico. Ovviamente le reazioni, il sottosegretario dell'economia Baretta viene intervistato da Paolo Baroni sulla Stampa, a pagina 3, dice: ora se piove abbiamo un ombrello. Questa è la metafora utilizzata. Va registrato il successo della posizione italiana, dice Baretta. La possibilità e sottolineo possibilità e non necessità di intervenire da qui a 6 mesi con garanzia dello Stato a favore di prestiti obbligazionari emessi dalle banche, ecco cosa comporta l'intesa. È uno strumento importante perché siamo all'interno dello schema degli aiuti di Stato, per cui non occorre chiedere un permesso preventivo. Insomma, per i prossimi mesi abbiamo uno scudo in più. Abbiamo un ombrello e se si mette a piovere possiamo aprirlo quando vogliamo. Ovviamente, aggiunge Baretta, speriamo che non piova. Questo è la metafora efficace per capire che cosa ha in mano ora il governo italiano, una sorta di rete di sicurezza per le banche italiane in caso utilizzabile. Segnalo anche l'intervista ad Antonio Patuelli, presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, viene intervistato da Rosaria Amato per Repubblica, pagina 9, dice: finché non ci sarà un testo scritto non possiamo dare una valutazione tecnico-giuridica. Ma sul bail-in dice questa frase Patuelli: il bail-in a mio avviso è incostituzionale e contrasta con l'articolo 47 della Repubblica, che è rigida e pertanto si può modificare solo con la procedura indicata all'articolo 138. E l'articolo 11, che prevede che l'Italia consenta in condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustifica tra le nazioni, sicuramente non è derogatorio dell'articolo 47. Prima o poi ci sarà qualcuno in via incidentale che lo eccepirà davanti alla Corte Costituzionale italiana, perché non esiste solo quella tedesca di Karlsruhe, quella di Roma è autorevolissima. Al che viene spontanea la domanda: ma perché nessuno ha sollevato allora la questione tra i risparmiatori delle 4 banche in risoluzione da novembre? Perché in quel caso non si trattava di bail-in, ma di una procedura di risoluzione. Il bail-in è entrato in vigore il 1 gennaio di quest'anno. La risposta di Patuelli, che comunque dice: il bail-in, a mio avviso, è incostituzionale. Abbandoniamo la Brexit e veniamo, e le conseguenze sulle banche, arriviamo alla politica. La politica si è animata in questi giorni, dopo un po' di giorni di stallo, tutti a capire che succedeva. Ora la politica si è animata molto, molto. Intanto ci sono due sondaggi, vengono citati, uno nell'articolo di Francesco Verderami sul Corriere della Sera, pagina 10, e uno su Repubblica, il titolo addirittura di prima pagina. Il senso dei due sondaggi: il primo sondaggio è Euromedia Research, quindi Alessandra Ghisleri molto vicina a Berlusconi. Il secondo sondaggio, quello di Repubblica, Demos, ne parla Ivo Diamanti. Dicono entrambi la stessa cosa, e cioè c'è il sorpasso in qualche modo del 5 Stelle sul PD nell'indice di gradimento. Euromedia Research dice: per la prima volta il valore personale di Renzi, 27,6%, è inferiore a quello del suo partito, accreditato al 29%. E per la prima volta, scrive sempre Francesco Verderami sul Corriere della Sera, il leader che è considerato più gradito agli italiani non è Renzi, ma Di Maio, in testa nell'indice Di Maio, dunque vicepresidente della Camera, indice di gradimento dei leader nazionali. Se andiamo su Repubblica, l'analisi di Ilvo Diamanti dà il là al titolo di prima pagina: 5 Stelle sorpasso sul PD. Le recenti amministrative hanno lasciato il segno sul piano nazionale. E allora ecco che il Movimento 5 Stelle è l'unico partito a essersi rafforzato in ambito nazionale, mentre gli altri si sono indeboliti, più di tutti proprio il PD di Renzi, e le ultime elezioni riflettono queste considerazioni. In caso di elezioni politiche, Demos attribuisce al Movimento 5 Stelle oltre il 32% dei voti validi, circa 5 in più, mentre il PD si attesta al 30%, o meglio poco dopo, appena sopra il 30%, dunque il sorpasso. Ovviamente sono sondaggi. Al di là dei sondaggi c'è l'aspetto di Forza Italia. Allora, tutti a pendere dalle labbra di Fedele Confalonieri, che ieri in un colloquio alla stampa ha detto: torni Berlusconi e rifaccia il Nazareno. E ecco allora che questo ha portato a titoli su tutti i giornali: il partito che protesta, si spacca. In realtà Repubblica scrive che ci sono due partiti ormai, il partito dei fedelissimi Fininvest e il partito politico. Il Fatto Quotidiano è abbastanza duro e cattivo nel titolare: Forza Italia è Villarzilla. E cioè, insomma, oltre a Berlusconi, anche Fedele Confalonieri mette gli ottantenni a capo di Forza Italia dal punto di vista amministrativo e finanziario, Villarzilla, no? E però il Fatto scrive: questa è inciucista per vocazione, cioè passerà la linea Confalonieri. Guardate anche il titolo di libro: Fidel, cioè il soprannome di Fedele Confalonieri, Fidel Scialuppa del PD, i renziani plaudono all'apertura di Confalonieri. Guardate il Giorno: Confalonieri spacca Forza Italia, nessun aiuto a Renzi. Guardate La Stampa, La Stampa, che ha avuto il colloquio con Confalonieri, oggi con Francesco Bei fa un altro retroscena che riguarda Berlusconi e dice: Berlusconi è pronto a dare l'addio a Forza Italia, proprio rottamare il partito, e a ottobre punterà con un nuovo leader, qui ci sono i nomi di Giovanni Toti, ma spunta anche Maria Stella Gelmini, e il nuovo nome del partito potrebbe essere L'Altra Italia, da Forza Italia L'Altra Italia. Questo almeno scrive La Stampa. Certo, poi spunta uno scenario, eccolo qua, il nome. Secondo il Giorno: Berlusconi, se cade Renzi, un governo Amato. Giuliano Amato. Ma insomma, mi sa un non so che di già sentito. Comunque, staremo a vedere. La politica non è finita, ma prima devo dare il benvenuto a Mauro Meazza con una grande sorpresa. Mauro, buongiorno. Tu non la conosci questa sorpresa? Eccola qua. Mauro, come stai? Buongiorno. Bene, allora, grazie. Sono un po' preoccupato. Buongiorno. Abbiamo la prova provata della fede nerazzurra del vostro nuovo presidente. Sai che il vostro nuovo presidente, sai come si chiama? Vediamo se il vostro nuovo patron, come si chiama? In questo momento non me lo ricordo. Zhang Jingdong, patron di Suning. Ti ringrazio, adesso me lo segno. Attenzione, ascolta qui Mauro, sì. Perché ha detto, beh, cosa può dire? Forza Inter, cioè questa è proprio no, la cosa. Ecco, senti qua la prova, senti bene, Forza Inter. No, scusate, no, scusa, no, aspetta. No, non è chiarissimo. Ha tossito. No. Sentiamolo bene. Allora, dice Forza Inter. Ecco, no, non Forza India, non hai comprato l'India, aspetta. No, aspetta, risentiamolo per la terza volta. Vorrei precisare che vorrei chiedere a Peter Bescapè. C'è da studiare un attimo per Jean Zindong. Che se tu sei Giaccherini, non so se Bescapè è Conte, allora sì, a questo punto, visto che sta dalla panchina. Se tiene proprio questa parte in cui tu dici tre volte per tre volte sì, Forza Inter. Faccia Inda. Veniamo a cose più serie. Sì. E perché capisco che è venerdì, incombe il fine settimana, le mie lunedì, però ci sono comunque delle cose importanti da segnalare dal Sole 24 Ore. Ad esempio, il fatto che per il 770, caro Alessandro, mentre tu ti balocchi con questi audio di dubbio gusto, per il 770 si profila, ma manca la conferma, una proroga al 22 di agosto, dal 1 di agosto che è la data. Tu dici, e a me e a te niente, ma a tanti invece interessa. Poi abbiamo, come sempre, in queste occasioni di cambio di mese, i tassi del credito agevolato, sempre su norme e tributi, ma la storia più bella che ti voglio raccontare è che da oggi, diciamo, la giustizia amministrativa doveva passare alla telematica. C'erano state già tre proroghe, quindi tutto sembrava definito, e invece no. Aspettiamo no. Altri sei mesi. Non corriamo. In fondo, ne parliamo solo dal 2001. Chi va piano va sano e va lontano. E soprattutto va con il cartaceo e non con la telematica. Ma la storia è ben illustrata, è ben riassunta, per così dire, da Antonello Cherchi nelle pagine indovina un po' di norme e tributi. Oh, bravo, vedo che nonostante tu sia distratto da questioni tutt'altro che rilevanti, però ancora sai dove devi andare a cercare le cose importanti. Ti segnalo naturalmente, come sempre, la guida alla Brexit, al post Brexit, anche oggi quattro pagine, e non solo le quattro pagine, perché poi nelle pagine iniziali naturalmente altre considerazioni sull'andamento dei mercati e anche questa possibilità che la Bank of England tagli i tassi per sostenere l'economia e gli scossoni appunto per l'economia britannica dopo Brexit. Infine, tanto per così reagire a questa, sei riuscito a mettermi di malumore con questo audio continuo, ecco, allora guarda, leggiti tranquillamente, con serenità, la prima pagina della parte di imprese e territori, dove ti spiega che non solo i consumi non ripartono, ma sono pure in aumento le bollette della luce e del gas. Buon lavoro a tutti. Però prima di buona domenica, risentiamolo un attimo. Presidente, ricordiamo, Jean Zindong, presidente di Suning e dell'Inter. Signor Presidente, senti un po'. Ecco, allora così abbiamo tutti adesso noi interisti, abbiamo la corretta pronuncia della squadra per il nostro miliardo e 200-300 milioni, non saprei più, di nuovi tifosi. Benissimo. Capisco che tu sei invidioso, visto che ci arriviamo anche noi tra poco, stai tranquillo, ci arriviamo anche noi. Abbiamo cercato questo closing che non arriva mai. Vedremo se questo fine settimana sarà, come dici tu sempre, decisivo. Decisivo, bravo. Oh, e allora, traffico! Intel! Anche l'Intel! Scuola cinese, milanese, dell'informazione! Va bene, basta, promettiamo più, basta, questo tormentone almeno per tre giorni ve lo risparmiamo, va bene, che poi dopo veniamo a noia. Allora, dicevo, di politica non è finito, c'è tutto il dibattito sulla legge elettorale, sull'Italicum, questo scrivono almeno i giornali. I 5 Stelle blindano l'odiato Italicum, e anche per Repubblica retromarcia Movimento 5 Stelle la legge elettorale, ok, cioè sull'Italicum c'è tutto un dibattito, la si vuol cambiare, non la si vuol cambiare, vabbè, non è uno di quegli argomenti, come dico sempre, che è principe nel dibattito, secondo me, delle famiglie italiane, ma certo c'è molto di questa vicenda. C'è anche molto di che cosa? Dell'attenzione verso le giunte a targa Movimento 5 Stelle, Roma e Torino soprattutto. I giornali raccontano, guardate qui Repubblica, guerra grillina tra correnti, bloccata la giunta Raggi, questo su Repubblica, Mauro Favale. Oppure sul Corriere della Sera, più donne che uomini, giunta in ritiro, inizia l'era Appendino. Questa invece è la vicenda di Torino, dove la neosindaco Appendino ha detto: una volta al mese la riunione della squadra, cioè della giunta, sarà in diretta Facebook per rispondere ai cittadini in tempo reale. Tra l'altro a Torino c'è la vicenda, appunto, che ha creato polemiche, di Federica Patti, neoassessore alle risorse educative, che è stata, secondo alcuni, accusata di avere fatto la furbetta alla dichiarazione per ottenere uno sconto per le figlie al nido, perché nella dichiarazione non aveva detto di stare con il compagno, di convivere con il compagno. Lei si difende, a Repubblica, intervistata, dice: altro che furbetta, forse sono stata l'esatto contrario. Ma perché lei non ha dichiarato tutti i redditi, quello suo e del suo compagno? Perché non me l'hanno lasciato fare? È per questo che ho fatto ricorso al giudice di pace. Io ho fatto quello che dovevo fare, il giudice di pace ha riconosciuto la mia buona fede. Tanto che il comune mi aveva contestato 2.000 euro tra rette e sanzioni, il giudice ha ridotto a 1.000 euro. Beh, vabbè, insomma, comunque ha ridotto, ma una sanzione c'è stata. Però racconta: mi sono impegnata per risolvere un problema legato al caso, non raro, di genitori conviventi con residenze diverse ma con lo stesso domicilio, caso contemplato nella domanda di accesso ai nidi e alle materne. Fino al 2013 i CAF, dove si faceva l'ISEE per la riduzione delle tariffe in mancanza della residenza, non sommavano i redditi. Può sembrare strano, ma è così, e io ho sollevato il caso. E quindi dice: altro che furbetta, io mi sono di fatto autodenunciata, ho sollevato un caso e il giudice di pace ha riconosciuto la mia buona fede. Vabbè, chissà se la polemica è conclusa. Certo, ogni passo, la sensazione è che ogni passo di queste due giunte verrà controllato in maniera scandagliato, in maniera molto molto certosina. Tra l'altro oggi la Raggi, per tornare a Roma, incontrerà il Papa. E c'è invece, sempre su Roma, per il Corriere della Sera, Sergio Rizzo, il caos rifiuti, il caso dei rifiuti nella città senza impianti, raccolta che crolla al minimo nei giorni festivi. Pensate che racconta Sergio Rizzo che non è il sabotaggio, come qualcuno del 5 Stelle ha denunciato, ma chi avanza questo sospetto dovrebbe sapere come funziona a Roma e dovrebbe sapere che la pulizia delle strade nei giorni di festa è ridotta al 25%. Capito? È festa, quindi non si raccoglie la monnizia. La raccolta dei rifiuti non supera il 30%, il che in una città dove proprio in quei giorni la pressione dei visitatori si avverte di più non è certo un bel viatico. Cioè si dovrebbero raccogliere effettivamente nei giorni di festa di più i rifiuti rispetto ai giorni normali, visto che ci sono più turisti a Roma. Questo in un paese normale che funziona secondo una logica, ma invece non succede così. Allora, tra l'altro, stando a Roma, c'è questa notizia che viene data dal Messaggero, che, per carità, è sempre brutto parlare di accuse e poi mettere in pagina le persone e poi chissà se le accuse sono vere. Ma Massimo Converso, che è presidente dell'Opera Nomadi, racconta il Messaggero con Valentina Errante e Sara Menafra, deve rispondere ora a accuse gravissime. Truffa e violenza sessuale, truffa aggravata, peculato, frode aggravata nelle pubbliche forniture, violenza sessuale. Gli uomini dei carabinieri hanno avviato verifiche su presunti contatti tra lui, che appunto è a capo di questa opera Nomadi, cioè che si batte per i diritti dei Rom, e diverse minorenni che sarebbero state avvicinate dal leader della cooperazione, con decine di telefonate nel corso delle quali Converso si lascia andare a commenti ambigui con le donne che lavoravano con lui e che in alcuni casi erano con pochi soldi in tasca e facevano fatica a dire no al presidente dell'associazione che le rappresenta e le tutela. e le dovrebbe, almeno bisogna usare il condizionale a questo punto. Comunque, truffa e violenza sessuale bufera sull'opera Nomadi, questo è il titolo di pagina 17 del Messaggero. Attenzione, il Corriere dice che la Apple sta mettendo a punto una tecnologia per bloccare gli smartphone quando vanno negli stadi a fare foto e filmati ai concerti. Peter Bescapè ha fatto dei due occhi, come dire, sono rovinato. No, no, no, si scherza. Un sistema sui telefonini blocca i video ai concerti e Apple fa felici i cantanti che dicono ci sono i diritti, non è che potete riprendere il concerto e poi metterlo, che ne so, su YouTube o su Facebook, eccetera. Comunque, invece siamo in diretta su Facebook in questo momento e nel mio profilo pubblico per la carta costa l'articolo più inutile scovato sui giornali, una pagina sull'amore che è un format sul Corriere della Sera, spopolano i reality che raccontano i rapporti di coppia. Ma chi se ne frega!